24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 16 minuti di questo martedì 28 aprile inizia la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone. Abbiamo, come di solito, dato un'occhiata a qualche quotidiano che ci fa specchiare negli stessi problemi nei quali ci specchiamo noi. Per esempio, in Gran Bretagna, grande attesa per il ritorno ormai a Downing Street di Boris Johnson e per come vorrà affrontare l'uscita dal lockdown. Sì. E c'è, senti Maria, ma si parla di affetti stabili sui giornali inglesi? No, mi sa. No, si parla molto del problema scuola, perché da tutte le parti, sia il Daily Telegraph, che viene un po' scherzosamente chiamato il Daily Boris perché è molto a favore di Boris Johnson, però persino il Daily Telegraph fa notare come 5 settimane con la scuola chiusa stiano producendo dei danni enormi, soprattutto sui ragazzini che non hanno famiglie che possano seguirli. Il problema a scuola sta diventando incandescente anche in Francia. Sapete che si riapriranno l'11 maggio, ma il quotidiano Le Parisien ieri titolava Blanquer nell'inferno di Grenelle. Blanquer è il ministro dell'istruzione che, d'accordo col Presidente della Repubblica, insiste per aprire le scuole, mentre il primo ministro, cioè l'equivalente del nostro Giuseppe Conte, ha più o meno le stesse posizioni di Conte, quindi vorrebbe frenare perché pare che non siano ancora pronte le scuole francesi a riaprire. È un grande dibattito e lo stesso grande dibattito riguarda un altro settore che per la Francia è storicamente importantissimo, quello della cultura. E infatti Le Figaro questa mattina apre proprio sui dimenticati dell'apertura, del ritorno alla fase 2, per dirla. Tutti teatri, cinema, musei, non ci sono misure per proteggerli e sono in grave difficoltà. Del resto ovviamente è la cosa più difficile. Allora oggi, tra l'altro, anche di scuola, ma non solo di quello, più in generale della questione del benessere psicofisico dei ragazzi e dei bambini, che non si esaurisce con la scuola è una grande componente ovviamente, ma non si esaurisce con quello, parleremo con la ministra della famiglia Bonetti subito dopo la pausa. Però oggi iniziamo dalla politica e iniziamo dal centrodestra. Buongiorno a Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio, presidente di Forza Italia. Grazie, dottor Spezia, di avermi chiamato. Sono a vostra disposizione. Maria, prego. Eccoci. Allora, buongiorno presidente. Buongiorno. Sono Maria Latella, non ci sentiamo da un po'. Ma eccoci con una condizione piuttosto difficile per il nostro paese. Ne ha parlato anche lei in una intervista nei giorni scorsi al Messaggero. E a proposito del bisogno di soldi, di denaro che il nostro paese, le nostre aziende hanno, ha detto: davvero non riesco a capire le opposizioni al MES, al Fondo Salva Stati. Però, presidente, sono i suoi alleati, Salvini e Meloni, a presentare ordini del giorno contro il MES. Da quando e da quanto non sente Matteo Salvini? Ne ha parlato con lui? Parlato, e lui mi ha spiegato le sue posizioni e io gli ho spiegato invece le mie ragioni, le ragioni per le quali ritengo che sarebbe assolutamente assurdo per noi rinunciare a 36 o 37 miliardi che ci verrebbero prestati a tasso zero e senza condizioni. Sono somme con le quali potremo costruire nuovi ospedali, riqualificare gli ospedali esistenti, potremo assumere più medici e più infermieri, potremo aumentare gli stipendi al personale sanitario, sovvenzionare la ricerca, moltiplicare le facoltà di medicina nelle nostre università, potremo costruire reparti di isolamento nelle case di riposo e nelle carceri, che sono luoghi ad altissimo rischio. Potremmo forse anche dare da mangiare a chi a causa dell'epidemia è ridotto alla fame. E davvero dire no mi pare un pregiudizio assurdo, una cosa assolutamente insensata. La vicenda del MES, però, Presidente, è centrale per i vostri alleati. Su questo hanno costruito un pezzo delle loro campagne elettorali e anche delle loro campagne di comunicazione politica. Questa questione non cambia i rapporti con loro? Cioè, lei è un sincero europeista. Come si trova alleato con forze così radicalmente euroscettiche? Ma guardi, dottore, io non definirei Lega e Fratelli d'Italia forse radicalmente euroscettiche. Certamente il loro atteggiamento verso l'Europa è diverso dal mio, dal nostro. Usano un linguaggio che è figlio di una cultura politica che non ci appartiene. Non è una novità, del resto, il fatto che il centrodestra sia una coalizione di forze diverse, in cui noi di Forza Italia rappresentiamo l'anima liberale, cristiana, garantista, l'anima europeista e occidentale. E io parlo di un'anima e di una sensibilità che sono fondamentali in un centrodestra che possa governare. Noi rappresentiamo con orgoglio, con coerenza, il Partito Popolare Europeo in Italia, il Partito Popolare che è la maggiore famiglia politica dell'Europa, e siamo lontani dal sovranismo che io considero responsabile di molti dei mali che affliggono l'Europa. E immagino poi che per alcuni sovranisti opporsi al MES sia anzi proprio un pretesto per allontanare il nostro paese dall'euro e dalla stessa Unione Europea, rendendo impossibile di aiutarci ai nostri partner europei. Tanto accanimento da parte dei 5 Stelle, altrimenti non saprei come spiegarmelo. Non posso tuttavia neppure immaginare che i nostri alleati siano mossi dalle stesse ragioni dei grillini. Non si spaccherà certo su questo il centrodestra, la nostra coalizione, che si fonda invece su un progetto globale molto chiaro per l'Italia. Ecco, Presidente, non si spaccherà il centrodestra, ma continuerete a pensarla diversamente su molte cose, inclusa la sfiducia individuale contro Gualtieri. Lei ha già detto che Forza Italia non la voterà. Molti pensano che ci vorrebbe un nuovo governo dopo Conte. Cito sempre le sue parole al Messaggero. Lei, a proposito di Conte, ha detto: il nostro giudizio sul governo è sempre stato negativo e non cambiamo idea, ma non mi sembra questo il momento sostanzialmente di metterlo in discussione. Siamo sempre disponibili a offrire il nostro contributo al governo. Le chiedo, fino all'appoggio esterno, se la situazione economica lo richiedesse? Guardi, dottoressa, io vorrei provare a chiarire una volta per tutte un concetto che ho ripetuto spesso in questi giorni. Un conto è la collaborazione istituzionale nell'emergenza, che noi abbiamo sempre garantito dal primo giorno e continueremo ad assicurare all'esecutivo in carica. Un altro conto è un sostegno politico al Presidente Conte e al suo governo, per il quale non vi sono e non vi saranno mai le condizioni. Il nostro è l'atteggiamento di un'opposizione responsabile, ma che non cessa di essere opposizione. E infatti noi siamo molto critici sul modo nel quale il governo sta gestendo questa fase, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza economica e le difficoltà in cui si trovano cittadini e imprese. Tuttavia, in questo momento straordinario, la priorità, secondo noi, non è attaccare il governo, e del resto una crisi non sarebbe pensabile in queste circostanze, ma è lavorare per uscire dall'emergenza. E naturalmente rimaniamo all'opposizione, perché siamo incompatibili con le forze che sostengono il governo Conte, e continueremo ad operare per un governo più adeguato e anche più rappresentativo degli italiani. E potrebbe essere un governo Draghi? Le piacerebbe un governo Draghi, Presidente? A chi non piacerebbe una figura come Draghi, Presidente del Consiglio? E sono stato io a portare ad ogni costo, superando molte difficoltà, Mario Draghi alla guida prima di Banca Italia e poi della Banca Centrale Europea. Però mi permetto di insistere, questo non è oggi un tema all'ordine del giorno. Se e quando se ne porranno le condizioni, se ci sarà una maggioranza parlamentare possibile, ne parleremo come i nostri alleati. Ora però le urgenze sono altre. Uno, salvare dal fallimento molte aziende. Due, soccorrere chi è rimasto senza lavoro e senza reddito. Tre, evitare che si perda altra occupazione e infine aiutare artigiani, commercianti e partite IVA che da un giorno all'altro hanno visto azzerare il loro reddito. Ecco, io vorrei che fossimo tutti concentrati su come aiutare gli italiani. Per le manovre politiche direi che c'è tanto tempo. Presidente Berlusconi, gli italiani guardano molto e anche con aspettativa quello che si deciderà in Europa, a Bruxelles e a Francoforte. Secondo lei è stata convincente la risposta europea? Perché se ci fosse lentezza e incertezza nell'aiutare il nostro paese per un'emergenza coronavirus che ha investito tutto il mondo, quei sovranisti di cui lei prima parlava come di un pericolo potrebbero ottenere nuova benzina. Certo, ma io obiettivamente non mi sento di dare un giudizio così severo sull'Europa. Se vi sono state lentezze e ritardi nell'intervenire a favore dell'Italia è stato proprio a causa delle resistenze dei partiti sovranisti che sono forti in alcuni paesi, soprattutto nel nord Europa. Ma direi il sistema Europa, dopo qualche incertezza iniziale che io per primo ho condannato, sta rispondendo all'emergenza meglio di quanto abbia fatto il nostro governo. Infatti la BCE, Banca Centrale Europea, si è resa disponibile ad acquistare titoli di Stato dei paesi in difficoltà addirittura oltre i 1.000 miliardi di euro, quindi evitando uno shock sui tassi di interesse che sarebbe stato catastrofico per noi. Due, l'Europa, avvalando il fondo SURE, per il quale io ho spinto molto con i miei amici che sono i leader del Partito Popolare Europeo, è un fondo con il quale si può finanziare la cassa integrazione che è fondamentale per i lavoratori delle aziende che sono in difficoltà. Tre, poi ci sono state le grandi cifre che la Banca Europea degli Investimenti è pronta ad impiegare nel nostro paese, soprattutto per realizzare le grandi infrastrutture e rimettere quindi in moto molti settori dell'economia. E adesso sappiamo che l'Italia ha un deficit infrastrutturale del 50% rispetto a Francia, Germania e Spagna, e quindi ha un costo del 18% in più nei trasferimenti, nei trasporti dei nostri prodotti rispetto appunto a questi che sono i nostri maggiori concorrenti europei. Infine vi sono naturalmente le risorse del MES di cui abbiamo appena parlato, e per finire vi è lo strumento più importante, il Recovery Fund, che è stato varato nei giorni scorsi dal Consiglio europeo. È uno strumento ancora da definire nei dettagli, dovrà arrivare, speriamo, a 1.000 o più miliardi di euro, di cui almeno la metà a fondo perduto. E con questi fondi noi potremo finanziare le imprese senza costringerle a indebitarsi. Insomma, non si può certo dire a questo momento che l'Europa intenda fare poco, né che noi potremmo farne a meno. Si tratta invece è piuttosto di fare in fretta. Il Recovery Fund alla fine del 2020, come è previsto, è assolutamente troppo tardi. Bisogna che la BEI anticipi buona parte delle risorse in attesa dello stanziamento del Recovery Fund. Maria, prego. Le volevo chiedere, Presidente, lei ha molti nipoti e alcuni di loro vanno a scuola, in questo periodo no, i figli di Marina, i figli più grandi di Barbara. Secondo lei è giusto aver chiuso le scuole e riprenderle soltanto a settembre? Forse, tra l'altro. Guardi, io francamente penso di sì. Da nonno potrei essere contento di avere i miei nipoti in casa, ma so bene che ci sono due gravi problemi. Non è sano per un bambino, per un adolescente rimanere chiuso in casa, essere sottratto alla frequentazione dei suoi coetanei, e la didattica anche viene danneggiata certamente da questa situazione. A ciò bisogna aggiungere il disagio di molte famiglie che, ricominciando a lavorare, non sanno a chi affidare i loro figli minori. Tuttavia mi rendo conto del fatto che occorre molta, molta prudenza. La scuola è un luogo ideale di contagio e il distanziamento tra un ragazzo e l'altro, un bambino e l'altro, negli istituti scolastici è molto difficile, soprattutto per i più piccoli, che poi a loro volta possono infettare gli adulti e gli anziani tornando in famiglia. È un tema sul quale io dico dobbiamo affidarci del parere dei sanitari. Mi lasci dire però che una cosa è davvero intollerabile ed è questa incertezza che si è diffusa su tutto il futuro. Per molte famiglie questo è il danno più grave. Presidente, scuola a parte, nell'impostazione che ha dato il governo alla fase 2, lo scaglionamento della riapertura dei negozi, bar, ristoranti, estetiste, parrucchieri, e la questione delle chiese e delle messe, come si pone, come la vede? Ma io la vedo molto male, non mi convince affatto questa impostazione della fase 2 che mi pare molto confusa, mi pare incerta, piena di contraddizioni. Se c'è una cosa che fa male alle persone e alle imprese è proprio l'incertezza. E poi ci sono scelte difficilmente comprensibili. Che senso ha, per esempio, riavviare la produzione e la distribuzione all'ingrosso e tenere chiusi i negozi? Le merci poi, le merci prodotte, dove si potranno vendere? Se vi sono le condizioni per aprire in sicurezza, perché queste non valgono anche per i piccoli commercianti? Noi non dobbiamo trascurare il fatto che il commercio al dettaglio è uno dei settori che più hanno sofferto dalla crisi, quindi è assolutamente indispensabile che gli esercizi commerciali, i negozi, si aprano il 4 maggio, non un giorno più tardi. E poi c'è una contraddizione ancora più grave che lei ha ricordato, è il divieto delle funzioni religiose. È un atto che io veramente definisco ai limiti del persecutorio. Perché le persone possono andare in fabbrica o in ufficio ma non possono andare a messa? È un tema di libertà religiosa, ma anche di rispetto per i tanti italiani per i quali la messa e la comunione sono il momento più importante della vita spirituale. E i vescovi hanno fatto bene, molto bene, a far sentire la loro voce. Naturalmente poi la responsabilità di queste scelte non è della task force come qualcuno ha voluto attribuire, è invece una responsabilità del governo, perché è il governo che decide ed è al governo che vanno le nostre critiche e le nostre richieste di cambiamento. Grazie a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, per essere stato con noi. Buona giornata. Buona giornata e molte grazie a lei e alla dottoressa Latella. Grazie ancora. Buona giornata, Presidente. Ci prendiamo una pausa adesso e torniamo tra un attimo con la ministra Bonetti. Elena Bonetti, ministro della Famiglia, buongiorno, benvenuta ai nostri microfoni, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno ministro. Maria, prego, allora, vai tu. Sì, tra le tante cose di cui ci si occupa, o soprattutto forse si occupano i giornali, non lo so se sia la priorità per gli italiani, forse sì, perché non si è capito bene che cosa si intenda per congiunti. Ieri abbiamo appreso che comunque tra i congiunti rientrano anche le coppie di fidanzati. Le chiedo, secondo lei ci sarà un problema di responsabilità o irresponsabilità dei singoli? Nel senso che chiunque può dire ma io sto andando a trovare la mia fidanzata, sto andando a trovare il mio fidanzato. Insomma, il rischio che il 4 maggio ci sia un liberi tutti un po' caotico c'è o non c'è? Guardi, la parola che ha utilizzato credo che sia la parola fondamentale, responsabilità. La responsabilità che abbiamo imparato in questo periodo faticosissimo per tutti è quella di rispettare delle regole che ci vengono consegnate per evitare il contagio diffuso, e questa responsabilità è il modo che abbiamo per prenderci cura gli uni degli altri, della nostra salute, ma anche del paese, perché è chiaro che il paese deve ripartire e per ripartire deve farlo con regole di sicurezza che impediscano che il contagio ricominci a crescere. Quindi io credo che la responsabilità significhi in questo caso mantenere tanto le distanze fisiche, ma mantenere contatti sociali limitati. Ovviamente il rischio che uno pensi che abbiamo risolto tutto c'è, nel contempo io ho fiducia che la risposta che ha dato l'Italia, che hanno dato i cittadini italiani in queste settimane, dimostri invece che siamo un paese che è all'altezza della sfida che lo attende e che quindi è in grado di rispettare le regole. Allora, al di là dell'interpretazione della parola congiunti in se stessa, io ieri l'ho detto con forza, non possiamo pensare di fermarci ad un'interpretazione giuridica e quindi dobbiamo come governo precisare che si tratta della possibilità di garantire alle persone una frequentazione sulle relazioni fondamentali per la propria vita, finalmente mettendo al centro anche la persona e la sua necessità di relazioni importanti nella vita. Quindi io poi avevo fatto l'esempio delle coppie omosessuali o delle coppie di fatto, non si può pensare che oggi non abbiano la possibilità di ricongiungersi e invece altre persone sì. Di contro dobbiamo anche sapere che non possiamo riattivare in modo diciamo incontrollato e diffuso le nostre relazioni sociali, perché altrimenti riparte il contagio. Ministro, lei è anche ministro delle pari opportunità. Ora, con questa fase 2, con un ritorno al lavoro progressivo, ma che comunque ci sarà, si apre un grande problema, ne abbiamo parlato spesso da questi microfoni, un po' per tutte le famiglie, ma un po' per tutti in famiglia, ma soprattutto per le donne. Noi sappiamo che le donne spesso hanno un reddito inferiore rispetto agli uomini, quindi nella scelta su chi deve rimanere a casa in una situazione di questo genere, non sapendo dove mettere i figli, in una famiglia con due redditi, inevitabilmente o quasi inevitabilmente finirà per rimanere a casa la donna. E qua mi sembra ci sia stata una carenza da parte del governo nell'intervenire su questo fronte, sul tema delle famiglie con figli. È un tema che sto ponendo da settimane, che ho posto dal pomeriggio in cui abbiamo deciso di chiudere le scuole, l'ho posto con forza, dando da subito la prima risposta, che era una risposta tampone, ma la prima necessaria da dare, cioè l'assicurare il Paese che avremmo introdotto uno strumento straordinario di estensione del congedo parentale, che ho voluto costruito diviso tra le madri e i padri, proprio perché ho ben chiaro questo problema e non voglio che accada che il 4 maggio in una famiglia ci si guardi negli occhi e si dica chi rimane a casa con i bambini e chi rimane a casa se soltanto la donna. Faccio anche presente che in questo momento le donne sono quelle che sono maggiormente impiegate nelle attività lavorative aperte, gli ospedali, i supermercati, quindi la forza lavoro femminile oggi è pienamente in campo. Dobbiamo permettere alle donne, come agli uomini, di tornare a lavorare. Ho posto con grande insistenza il tema della cura e la custodia dei figli e quando parla di pari opportunità in questo senso si parla delle pari opportunità tra le donne e gli uomini, ma anche delle pari opportunità di una generazione, quelle dei bambini, dei giovani che hanno diritto a essere riconosciuti come cittadini che hanno alcune necessità. Sì, ma al di là, mi scusi ministra, al di là di porre la questione che insomma ha ricevuto risposta dai suoi colleghi di governo oppure no? In questo momento diciamo mi sembra evidente che oggi finalmente il problema si è emerso, il Paese si è alzato, ha alzato la voce, che quindi questo oggi sia un tema. Io oltre ad aver posto il problema ho proposto delle soluzioni che oggi sono ancora allo studio, nel senso allo studio dell'approvazione. Ho posto l'idea di fondo che ho messo in campo è che se le scuole non possono riaprire, dobbiamo sostenere le famiglie attraverso una rete di realtà educative che possa riorganizzare attività anche a custodia e per l'educazione dei bambini, ovviamente in una modalità sicura, piccoli gruppi, distanziamento. La prima proposta fatta è usiamo gli spazi aperti, i parchi. Sapete che ho fatto una battaglia da questo punto di vista sulla riapertura dei parchi. Una alleanza con i comuni, con le realtà del terzo settore per poter organizzare attività in sicurezza per poter custodire i bambini, per permettere anche ai bambini ad avere un'esperienza di socialità, di crescita, di educazione, proprio perché sono stati chiusi in casa dei mesi e questo li ha privati di un loro diritto fondamentale che è quello anche alla crescita e la crescita all'aperto, la crescita nelle relazioni, la crescita in contesti educativi. Posso chiederle la sua opinione personale sul perché le scuole in Italia non si possono riaprire? Ieri il presidente Mattarella l'ha definita una ferita, pur nella comprensione della difficoltà. Nessuno sottovaluta i rischi sanitari. Citavo prima il grande dibattito che c'è in Francia col ministro della scuola che vuole riaprire e invece il primo ministro, cioè l'equivalente del nostro Conte, molto più freddo sull'idea di riaprire. E tuttavia noi ci stiamo dimenticando c'è il problema delle madri lavoratrici, ma c'è anche il problema dei tanti ragazzi che non hanno famiglie alle spalle che li possono mandare avanti negli studi a casa e che restano senza formazione di fatto. Io ho come l'impressione che questo problema non sia stato percepito nella sua gravità. Lo chiedo a lei, che è madre di tre figli. Avete comprensione del fatto che questi mesi non si recupereranno? Vi preoccupate di questo? Io sono fortemente preoccupata, e so la portata, non solo perché io ho due figli e so, li vedo, anche se da lontano in realtà, perché io sono a Roma e loro non sono con me, però diciamo, mi è ben chiara questa situazione, ma lo sono perché sono stata, sono un'educatrice, sono una professoressa universitaria, ho chiaro la portata di cosa significhi tutto questo. In realtà, guardi, il tema non è la mia opinione personale, il tema è che noi ci possiamo permettere un numero di persone che possono rientrare in contatto. Questo è il modello, diciamo, di diffusione dell'epidemia, funziona così, cioè questa è una legge, diciamo, fisica, biologica, insomma, della... quindi non possiamo modificare questa. C'è un numero massimo di persone che possono entrare in contatto. Se aprissimo le scuole, oltre a tutte le altre attività produttive e lavorative, il fattore, diciamo, di riproduzione, quindi di crescita del contagio, ricomincerebbe a fare in modo che l'epidemia si ridiffonda con una curva in crescita e non in decrescita come è in questo momento. Quello che infatti io propongo è che si organizzino attività alternative che possono essere invece riorganizzate, perché la scuola è una scuola, la scuola è diciamo un'attività che comprende quasi 9 milioni di studenti, tutto il mondo adulto, le famiglie, il tema dei trasporti, quindi ha un impatto numerico e di diffusione molto alto. Diciamo che si possono organizzare delle attività differenti che abbiano comunque una valenza educativa, quindi non solo di sostegno alle famiglie, ma che servano proprio ai bambini e ai giovani anche per una essenza educativa. Io immagino che questo possa essere fatto da giugno, con un'ipotesi della crescita dei contagi. Nel mese di maggio, già stamattina incontrerò i comuni, le regioni, le province insieme agli altri ministeri coinvolti per iniziare ad avere delle linee guida per aiutare i comuni eventualmente a creare delle attività all'aria aperta, in piena sicurezza. E poi stiamo anche pensando, proprio per rispondere a quel bisogno delle famiglie, di alcune famiglie in difficoltà nella gestione anche della didattica, penso anche a studenti con particolare difficoltà, di figure di volontari, anche studenti universitari, che possono andare a casa, laddove questo venga richiesto e sia possibile, ad aiutare le famiglie a svolgere questo compito anche di carattere di sostitutivo alla scuola. Sì. Allora, fin qui l'enorme tema del buco educativo che ha sollevato giustamente Maria Latella. Io chiederei un attimo di tornare, Ministra, al tema invece del buco organizzativo, che è la domanda che ci stanno ponendo tutti gli ascoltatori in questo momento, perché insomma il 4 maggio è dietro l'angolo. Vorrei sentire anche un'ascoltatrice, magari Laura dalla provincia di Modena. Buongiorno Laura, eccoci. Buongiorno. Prego. Io premetto, sono una libera professionista, quindi sono una psicologa libera professionista, e mio marito lavora in un'azienda che adesso è in parte in cassa integrazione, ma dal 4 maggio insomma si spera che tutto torni nel modo migliore. Il problema è che io ho due bimbi piccoli, una bimba di 3 e un maschietto di 6, quindi io sono spaventata dall'idea di dover di sapere come noi, io, mio marito, possiamo organizzarci nel mese di maggio, giugno, luglio e agosto, perché sono tanti mesi. Oltre a quelli passati, precedenti. Allora, Laura, la fermo chiarissima. Ministra Bonetti, il tema è proprio questo, quello che abbiamo posto all'inizio, no? È una questione enorme questa, e ripeto, il 4 maggio è dietro l'angolo, quindi io non è che le stiamo gettando la croce addosso, perché lei comunque è un ministero che spesso fa proposte. Non è la ministra dell'istruzione. Esatto, e poi, no, non è solo quella dell'istruzione, ma poi vanno messe in pratica queste cose, no? Vanno messe a terra anche da ministeri che hanno più capacità di spesa, questo diciamolo molto chiaramente, insomma. Però insomma ci siamo, eh? Sì, ci siamo. Io apro una parentesi, lei ha ragione, il tema organizzativo io l'ho posto, la mia forza politica l'ha posto da tempo, siamo stati i primi a porlo e i primi a dire che bisognava avere uno sguardo lungo di previsione, di profezia, no? Quella capacità un po' profetica della politica di sapere quale sarà il problema che dovrà affrontare, di anticiparlo e di governarlo. Siamo arrivati un po' in ritardo, ma non certo diciamo in un ritardo irreversibile, anche perché io nel frattempo questi temi li ho affrontati. Allora, dal 4 maggio, senz'altro, per rispondere all'ascoltatrice, di cui comprendo perfettamente l'incertezza, la prima risposta è: ci sarà la possibilità di chiedere un congedo straordinario, lo sto chiedendo in una forma elastica, quindi non rigida, possibilità di prendere dei giorni, eventualmente delle ore, quindi un congedo ulteriore per poter rimanere a casa con i figli, quindi sapere che dal 4 maggio, se non ci siano altre soluzioni, per un dipendente quello può chiedere di rimanere a casa perché ha diritto al congedo parentale ulteriormente allungato in una forma più elastica per le madri e per i padri. Il sostegno economico per le babysitter rimane, io ho detto che non basta il sostegno economico per un voucher babysitter perché l'incertezza, giustamente, non è solo il 4 maggio, è giugno, luglio, agosto, cioè l'incertezza si proietta nel tempo e a questa incertezza si deve dare una risposta stabile proiettata nel tempo ed è per quello che io dico oggi le famiglie italiane necessitano di una ulteriore liquidità, quindi un assegno mensile per tutti i figli fino alla fine del 2020, proprio per far fronte a quelle eventuali spese anche aggiuntive di carattere educativo, di babysitter, oltre a tutte le altre, che permetta alla famiglia di una proiezione in avanti. E poi in realtà siamo al lavoro con gli enti locali, perché sono quelli più prossimi, per organizzare di nuovo attività a sostegno delle famiglie, dove i genitori possono portare i bambini anche piccoli. Io ho chiesto, non è stato possibile, ma continuerò a insistere perché questo accada, di riaprire in particolare i servizi dell'infanzia 06, ovviamente riorganizzati in piccoli gruppi con tutte le regole che devono essere mantenute, ma su questo io ulteriormente posso andare, cioè continuerò a lavorare con insistenza. Nel frattempo lavorare in modo tale che da metà maggio, fine giugno, quando le attività riapriranno in maniera anche più consistente, si possa avere un reale e concreto sostegno dove alle famiglie a livello locale dove poter portare i bambini in modo tale che mentre i genitori vanno a lavorare qualcuno sta con i bambini. Ministro, noi abbiamo avuto ospite Silvio Berlusconi questa mattina e alla mia domanda se appunto prevede nuovi governi, la risposta è stata no, in questo momento c'è bisogno di lavorare tutti insieme perché i problemi sono enormi, giganteschi, quindi nessun sostegno esterno di Forza Italia a un governo, al governo Conte, ma lavorare insieme. Il suo partito Italia Viva ha spesso avuto, soprattutto prima dell'epidemia, una posizione di contrasto a Conte. Lei crede che sotto sotto Matteo Renzi la pensi come Salvini e vorrebbe un altro, non specificato chi, insomma, al posto di Conte a Palazzo Chigi? Guardi, Matteo Renzi credo sia stato sempre estremamente chiaro e con lui credo con altrettanta chiarezza ci siamo posti come Italia Viva, sia a livello di Parlamento che noi all'interno del governo. Questo governo è nato per rispondere ad una situazione di emergenza e di bisogno del Paese. Si è trovato a gestire la più grande emergenza della storia repubblicana, deve non tanto giustificare se stesso rispetto a giochi tra le parti, ma deve giustificare il proprio esserci, e lo dico io in prima persona che ne faccio parte, mettendosi a servizio e facendo bene il bene del Paese, che è un bene del Paese straordinario richiesto oggi, che chiede il concerto e la collaborazione da parte di tutto l'arco parlamentare. Quindi io auspico che davvero ci sia un maggior coinvolgimento del Parlamento, perché il Parlamento rappresenta l'intero Paese, non solo una parte del Paese. Ecco, però un governo esiste, ha ragione di essere, che fa bene il bene possibile. E questo deve essere il nostro impegno, quindi questo è il richiamo, non è tanto un tema Conte non Conte o le forze politiche che ne fanno parte. Oggi credo che la responsabilità della politica sia di chiedere, pretendere e impegnarsi, nel mio caso poi in particolare come ministro, per arrivare a questo obiettivo. Mi sembra che in generale come partito, come formazione politica stiate dimostrando una certa insofferenza, no? Per questo avvio della fase 2, per questo annuncio della fase 2. Lei su Twitter la sera stessa ha fatto una dichiarazione abbastanza dura sulla questione più in generale della libertà di culto, non solamente delle messe. Questa mattina lo stesso Matteo Renzi dice che il governo calpesta la Costituzione. L'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è uno scandalo costituzionale, va trasformato in un decreto e portato in Parlamento. Insomma, mi par di capire come formazione politica non vi piaccia un granché come è partita questa fase 2. Innanzitutto ci sono due elementi. Il primo elemento che abbiamo posto, lo sapete bene, come ho già detto prima, era la necessità di un'organizzazione preventiva. Per governare gli eventi bisogna avere la capacità di guardare oltre l'oggi, di proiettarsi sul domani. Questa è una responsabilità alla quale la politica e un governo non può abdicare. Quando abbiamo anticipato dicendo iniziamo ad organizzare, ma Torrenti l'ha fatto, l'abbiamo fatto noi, io l'avevo fatto sui temi di cui abbiamo appena terminato di parlare, dicevo dobbiamo già immaginare in che modo organizziamo il tempo delle famiglie dopo. È chiaro che questo non ha avuto poi un seguito nel dibattito istituzionale, politico, fattivo, ma ciò non toglie che non si debba continuare non solo a dire ma a operare per dare una soluzione. Sul tema che lei pone, io stessa, lo strumento del DPCM, il DPCM è un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non passa in CDM, non è una cosa che viene condivisa all'interno del Consiglio dei Ministri, per sua natura, e nemmeno in Parlamento. È chiaro che è uno strumento che è stato applicato all'inizio per poter rispondere in modo rapido all'emergenza che si stava evidenziando. Credo che alcune decisioni, come quella della chiusura, ad esempio della possibilità di celebrare qualsiasi funzione religiosa che tocca la libertà all'esercizio della propria religione, che è una delle libertà tutelate anche dalla Costituzione, chieda una condivisione più ampia, non solo nel governo ma anche all'interno del Parlamento. Ma proprio per quello che dicevo prima, nel Parlamento c'è il Paese che è rappresentato nella sua interezza. Su alcune questioni credo che il governo debba assumersi la propria responsabilità, intanto come governo nella sua interezza, e poi ovviamente ci deve essere un confronto col Parlamento, perché è al Paese che ci dobbiamo rivolgersi ed è col Paese che dobbiamo rispondere delle nostre decisioni anche dal punto di vista governativo. Ministro, anche lei ha la sua task force. Le chiedo come ha selezionato le persone che poi ha chiamato a lavorare con lei, quante sono e che cosa sta producendo la sua task force? Guardi, nel mio caso è una task force che non si vuole, diciamo, né sostituire, vorrei chiarire bene, alle scelte poi politiche che vengono fatte. Ho chiamato 12 donne che non sono semplicemente delle esperte, sono donne che hanno una vita, una testimonianza, hanno messo in campo un protagonismo personale tutto al femminile che ha cambiato in meglio il mondo nel quale si sono trovate. Oggi c'è bisogno di ripartire con uno sguardo più femminile nel paese, quindi quello che stiamo producendo è una proposta di indirizzo sulla quale poi costruire le politiche, un primo embrione di piano strategico non solo per la parità di genere ma per l'empowerment femminile, non per le donne ma a servizio del paese. Ci sono donne della portata di Fabiola Gianotti, di cui sappiamo tutti la straordinaria, diciamo, capacità professionale e umana, ma c'è anche una giovane ricercatrice di 31 anni che ha vinto il premio L'Oreal UNESCO, che è un ingegnere meccanico che ha fatto il dottorato, quindi che invece sempre in un ambito scientifico all'inizio della propria carriera. Questo per dire che ci sono anche generazioni che devono mettersi in campo e ricreare alleanze e percorsi possibili. Lavoreremo nell'ambito di proposte di coinvolgimento delle donne nella ricerca, in particolare nel mondo delle STEM, che è il mondo che aprirà alle prospettive future lavorative, e perché siamo convinti appena che si tornerà a scuola, ministro, appena si recupererà questo gap sulla matematica, sulle scienze, lo useremo fortemente anche nell'ambito digitale, una delle sfide che so che anche il Ministero dell'Istruzione sta affrontando. Molto rapidamente, Giulio dalla provincia di Siena e Roberto da Roma. Giulio, veloce. Sì, una domanda sullo smart working, visto che è uno strumento che in qualche modo può aiutare le famiglie. Sì. Volevo capire se il datore di lavoro è obbligato a concedere lo smart working, ovviamente ove ne sussistono le conseguenze, oppure se è semplicemente una scelta e quindi può essere sotto la sua valutazione personale. Credo che sia una scelta, però, ministra, si può ragionare su un'ipotesi di... Io è quello che avevo proposto, stiamo costruendo, è chiaro che poi dipende da una questione anche normativa, c'è una questione di rapporto, cioè questo obbligo rientra in competenze che sono non del mio ministero. Questa è stata una mia proposta, cioè obbligare o rendere molto conveniente, in modo tale che ci sia una reciprocità di interessi sia da parte del lavoratore che dell'azienda l'incentivo sullo smart working. Noi abbiamo messo anche in campo un progetto importante con alcune aziende come il Dipartimento della Famiglia proprio per incentivare queste forme. Lo smart working, l'importante è che sia uno strumento che valorizzi il lavoratore e non diventi una gabbia per le donne che devono curare sia la famiglia che il lavoro contemporaneamente, quindi che non sia un semplice telelavoro. Ecco. Se fatto bene è uno strumento straordinariamente utile. Allora, rapidissimamente Roberto da Roma, 10 secondi, via. Gestisco un centro sportivo e stiamo elaborando un progetto per i bambini e i ragazzi simile a quello proposto dalla ministra. Volevo sapere se sarà un'idea quella di allearsi, di un'alleanza fra privato e pubblico, cioè tra centri sportivi e scuole, per realizzare questi progetti laddove ci sono spazi sufficienti, spazi ampi. È buono lo spunto, ministra? È più che buono, penso sia esattamente necessario andare in questa direzione, ed è su questo che ci stiamo indirizzando, quindi bene, ma io conosco la realtà, la ricchezza del paese, anche fatto per esempio dal mondo sportivo, quindi si tratta davvero solo di creare il quadro normativo all'interno del quale collocare tutte queste proposte, metterle a sistema, metterle in alleanza, ovviamente poi mettere in campo anche delle risorse necessarie, ed è quello che è l'impegno pure che ci dobbiamo assumere come governo. Grazie Elena Bonetti, ministra della Famiglia, per essere stata con noi. Buona giornata. Vediamo se si arriva a qualche conclusione anche sulla riapertura delle scuole. Sì, soprattutto e sulla gestione dei figli, che anche quello, quello è un temone. Collegato, non è la riapertura delle scuole, non è la sola cosa. Cara Maria, ci risentiamo domani alle 8:20 naturalmente. La nostra task force, Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca e Gloria Guerrera in assistenza e redazione. Ci sono Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Se ci volete contattare, 24mattino@radio24.it, c'è la pagina Facebook, siamo su Twitter, siamo su Instagram. Siamo ovunque. Ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao.